Voci in scena di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola per un nuovo appuntamento con le nostre voci in scena, gli incontri con i grandi protagonisti dello spettacolo. La voce in scena di oggi è quella di un grande artista napoletano della nuova generazione. Ma senti, son capoce che intenda niente, mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vento, o vento, ma senti. È nato ad Avellino nel 1982. Cresciuto nell'entroterra napoletano, muove i primi passi nell'hip hop a 14 anni. A Napoli ha modo di affinare le sue tecniche nel freestyle, la disciplina tipica della cultura hip hop che consiste nell'improvvisare in rima. Vince tutti i primi del settore come il Tecniche Perfette nel 2004. Nel 2006 esce il suo primo disco, Napoli Manicomio, nel 2011 il secondo, intitolato Iena, acronimo di Io e Nessun Altro. Nel 2012 Ci Rimani Male e Chimica Brother, singolo doppio con Fabri Fibra, col quale stringe il sodalizio Rap Star. Intanto esordisce a teatro con Pino Quartullo in Che ora è? Nel 2013 gli album Armageddon e Mea Culpa, nel quale collabora con Fabri Fibra e Marrakesh, ma anche con cantautori come Gigi Finizio e Jovanotti. Nel 2015 esce un nuovo album, Miracolo. Nel 2016 partecipa alla 66esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo nella sezione Campioni con il brano Quando sono lontano, con il quale si piazza al settimo posto. Nel frattempo viene minacciato per aver rifiutato una collaborazione con un cantante neomelodico e le forze dell'ordine arrestano tre persone. La nostra voce in scena di oggi è Clementino. L'album si chiama Miracolo, e è uscito Miracolo, Miracolo Jam Version e poi dopo Sanremo abbiamo fatto Miracolo Ultimo Round e quindi abbiamo chiuso la trilogia del Miracolo chiamandolo Ultimo Round Tour. L'anno scorso c'è stato il Miracolo Summer Tour, quest'estate sarà Ultimo Round Tour, spettacolo diviso in tre parti, in tre atti come uno spettacolo teatrale. Ci saranno diversi ospiti pure a seconda della città in cui ci troviamo. E DJ Taiwan è il direttore d'orchestra, unico elemento della mia orchestra. E quest'anno la particolarità sono i video, ci sono dei videomaker molto bravi che passano questi visual dietro di me, fatti in digitale, una roba pazzesca. Infatti invito tutti a venire a vedere il mio concerto perché è veramente bello. E poi niente, c'è uno sbalzo di rap, vuol dire ritorno al passato, quindi parto dalle canzoni come Toxico, che è mia del 2010, fino ad arrivare alle canzoni di Sanremo, Quando sono lontano, oppure la cover Don Raffaè. La struttura in atti ti concede anche di fare questo viaggio, anche perché poi tu sei assolutamente vicinissimo al teatro per la tua biografia. Ti aiuta nella struttura di un live così strutturato, così complesso, sì, l'idea degli atti? Perché, sì, perché riesco tranquillamente a dividere i pezzi seri che con delle tematiche un po' più scottanti come l'immigrazione, la violenza sulle donne, come la criminalità, canzoni come Pianoforte a Vela che parlano delle stragi di Camorra, fino ad arrivare a pezzi d'amore come Kalimba de Luna, Voce Anima, oppure pezzi divertenti che fanno sorridere come Toxico, Chimica Brother, oppure Cose, che è un pezzo molto ironico, ma nello stesso momento parlo di cose serie. Ma sta metropolitana vindan scavat, ma state facen o a state cercan. Ecco, quindi fa ridere, però nella realtà cioè si dicono cose serie. Io sono stato battezzato a Sanremo come l'anima di Pulcinella di Napoli, dicevano questi critici, non so. E sono contento perché grazie a questa affermazione ho trovato il mio vero genere musicale. Il mio genere musicale è l'hip hop, quindi musica black, napoletano, quindi Pulcinella. Il mio genere si chiama Black Pulcinella. Mi piace, l'ho inventato io questo genere. Mi piace molto. Il primo inventore del genere Black Pulcinella. Per il momento ci sto solo io, poi vediamo gli epigoni. vorrei tornare indietro, ma quanti sbagli fra ho capito che non li ripeto. Il cuore dentro si era fatto qui come la pietra, a 15 anni una promessa che volevo questo e prendermi anche una cometa. Quante notti oscurate, nocche spaccate, note stonate, quanti dei nostri a fare le cose sbagliate. C'è chi si è perso dietro un muro e chi va avanti per il suo, c'è chi ha la forza tutti i giorni e poi combatte il buio. Io che sto qui a guardare il mondo da più sfumature, lontano da mamma e papà dove sono le cure, circondato dal disordine, scappato come rondine. Se guardo il mare fra mi sento un vortice. E quando sto lunga, ricordo qualche anno fa, voglio una mia zana via, una luce in tasta città. E mo che son che migrant, e voglio scela guarda, penso che sei stata prima, così tutta vita mia. Quante cose cambiate negli anni, un amico mi chiamava e diceva frate. Avevi già preso il Team Music on Stage Awards e quindi adesso riprendere significa dover alzare ancora l'asticella. Sì, perché il Team Music che abbiamo vinto era Best Tour, quindi quest'anno dovevamo fare la tournée meglio e l'unica cosa da fare praticamente era togliere. E quindi io che cosa ho fatto? Sto cercando di togliere l'alcol, togliere le sigarette, togliere in modo che riesco ad essere un pochino più in forma. No, a parte gli scherzi, ci sono tantissime novità, ecco, come dicevo, questa dei videomaker, questa dei passaggi. Poi abbiamo anche dei personaggi che appaiono sul palco, perché a me piace inventare personaggi nuovi. Due anni fa avevamo Enzo Sauro, che era questo tirannosauro Rex, saliva sul palco. L'anno scorso c'era il Brucaliffo, che era praticamente questo, il Brucaliffo di Alice del Paese delle Meraviglie. E quest'anno c'è un personaggio nuovo, non posso ancora svelare. Sei stato anche a New York, hai suonato anche a New York. Vuol dire che sei assolutamente senza confini, anche se hai detto che poi hai trovato gli italiani a New York. Beh, chiaro, sì, ho suonato a New York. Allora, è bello perché se uno suona a New York, suona anche in una stanza, però dice ho suonato a New York. E ho suonato in questo locale da 200 persone. C'erano calabresi, siciliani, napoletani e pugliesi. E quindi mi sono divertito molto, anche perché cioè, suonare a Manhattan non è una cosa di tutti i giorni. Io mi chiamo Pasquale Cafiero e so brigadiere del carcere Oinè. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, so appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutto loro Gustavo Denzio che sputa minacce e sabiglio con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che pensa e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere sanno fa. A ricetta di Cicirinella, compagna di cella ci ha dato a mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa? Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ce l'hanno i consigli. L'assessore che Dio lo perdoni, prenda roulotte e ce tene visona. Poi vi basta una mossa e una voce, che sto Cristo ce leva una croce. Con rispetto si è fatto le tre, pulita spermodo, pulito caffè. Ah, che bello caffè, solo in carcere sanno fa. Caricetta che Cicirinello, compagno di cella, ci ha dato a mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere sanno fa. Caricetta di Cicirinello, compagno di cella, preciso mamma. Qui ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendio, cucchi lo stipendio e l'amba se sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, mio marito non tena pazienza. Io non credo alla grazia per me, vi faccio la barba, la fate da sé. Qui tenete un cappotto cammello che al maxi processo eravato più bello. Un vestito c'è stato marrone, così c'è sembrato alla televisione. Pastinozzo vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Estate, tour, però sei tornato anche a frequentare il cinema, un po' con Zeta di Alemà e un po' con questa esperienza con Mediaset Premium. Che cosa hai fatto? Sì, con Zeta mi sono divertito, ho interpretato la parte di Clementino alla fine, me stesso che presento le gare di freestyle. Invece con Cinema e Rap, Studio Universal, è stata una bellissima esperienza perché ho presentato tutti i film che parlano di rap, quindi 8 Mile, Black and White, insomma è stata una bellissima storia, anche perché abbiamo girato tutto in un paio di giorni ed è stata veramente una cosa bella, perché a me piace la recitazione, mi piace il rap, quindi abbiamo messo insieme. Adesso mi sembra che tu abbia già fatto un sacco di cose. L'ultima volta che ci eravamo sentiti prima di Sanremo, il tuo sogno era Sanremo. Quest'anno hai fatto pure questo. Insomma, devo dire che per ora il 2016 è un grande anno. Che desiderio hai adesso? Perché ho letto, spero in una collaborazione con Manu Chao, è vero? Sì, io sono un grande fan di Manu Chao, ho tutti i suoi album e spero di collaborare con lui, insomma. Ultima cosa, visto che hai citato la... Vorrei presentare un programma in TV. Ah, tipo che programma ti piacerebbe presentare? Il Clementine. Clementine, già il titolo è perfetto. Il Clementine. Tipo, che ne so, Chiambretti Night, Aspettando Cattelan, L'ora di Fiorello. Quindi un late night, notturno? È una roba in seconda serata, dove sto io, la mia chitarra, il pubblico e ospiti che girano dai calciatori ai rapper agli attori. Mi piacerebbe fare questa cosa, lo facevo nei villaggi turistici il Clementine, in seconda serata, e quindi ho detto perché non puntare così un pochino più grosso, vediamo dai. Beh, mi sembra un'ottima idea. Volevo farti anche una domanda un po' più meditativa, un po' più seria, visto che tu hai parlato di temi assolutamente impegnativi e delicati, la violenza sulle donne, la criminalità. In questi mesi sei diventato anche un titolo di cronaca per tante cose che ti sono successe. Guardandoti indietro rispetto a quella brutta faccenda, adesso come ti senti? Io sto benissimo perché hanno fatto tutto loro. Loro sono non so loro chi, cioè le persone che hanno fatto determinati gesti sono stati stessi loro ad attirare le autorità e si sono portati. Io non ho fatto niente, io ho semplicemente detto tutto quello che dovevo dire su Facebook, io quello che dovevo dire l'ho detto su Facebook, poi per il resto non mi interessa niente, ci pensano le autorità, io voglio fare musica e niente, sono contento della gente che mi è stata vicino in quel periodo, però io sono un cantante, voglio fare la musica, poi per il resto non mi interessa. No, però sei stato comunque bravo e coraggioso a spiegare tutte le cose al tuo pubblico, che in modo che li capisse perfettamente. Non hai fatto poco, Clementino. No, io ho semplicemente fatto una foto e l'ho postata a tutti i miei fan. E era quello che bisognava fare, perché che dovevo fare? Poi lì ovviamente ci hanno pensato le autorità e hanno fatto tutto loro. Momenti difficili, quanto il rap può aiutare a far capire le cose ai ragazzi, a incontrare le coscienze dei ragazzi? Ma tanto, perché comunque il rap è un linguaggio di strada. Io ho avuto molti momenti di buio, tantissimi, per via delle notti oscurate, tra virgolette droga, ho avuto molti problemi anche a seconda della terra mia di provenienza. Io abito nella terra dei fuochi, quindi c'è sta niente, c'è poco e niente, c'è, le istituzioni dovrebbero dare molto di più, dovrebbero costruire più teatri, dovrebbero costruire più campi di calcetto, dovrebbero organizzare più concerti. E a me il rap ha salvato la vita, io sicuramente potevo stare dovunque adesso senza il rap, potevo fare il palo a Scampia per una base di fumo, come potevo fare un'altra cosa in un'altra nazione. Sono felice del mio lavoro, è quello che ho sempre sognato di fare da ragazzino e spero di continuare, insomma. Ma dopo Sanremo ti guardano con faccia diversa, ti riconoscono anche quelli che non conoscevano la tua musica? Ma dopo Sanremo devo dire che la canzone mia di Sanremo non è stata Quando sono lontano, è stata Don Raffaele. Quando sono lontano è stata una bella canzone dedicata agli immigranti, ma Don Raffaele è stata una mazzata in faccia e nemmeno io mi aspettavo. Mi ha scritto Eros Ramazzotti, mi ha scritto Fiorella Mannoia, mi ha scritto Dori Ghezzi, la moglie di De André. No, veramente non mi aspettavo una roba del genere. Sono contento perché magari ho dimostrato anche di essere un rapper che sa fare quella cosa che... Non lo so, prova a pensare 5-6 nomi grossi del rap italiano che fanno Don Raffaele. Facciamoci due risate. Ed è tutto per l'appuntamento di oggi con Voci in Scena. Con noi c'era Clementino. Ancora un saluto da Marta Cagnola.